Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Avevo giurato di non accompagnare Marta fino a Parigi, ma non potevo vincere il desiderio delle sue labbra. E poiché mi auguravo vigliaccamente di amarla meno, addebitavo tale desiderio alla partenza, a quest'ultima volta, così falsa, perché sentivo bene che non ci poteva essere un'ultima volta senza il suo volere. Di Montparnasse, dove doveva raggiungere i suoceri, la baciai senza ritegno. Cercavo ancora l'occasione nel fatto che allo spuntare della famiglia del marito sarebbe scoppiato un dramma decisivo. Tornato a F, adattatomi a vivere, aspettando solo di andare da Marta, tentavo di distrarmi. Vangavo il giardino, cercavo di leggere, giocavo a rimpiattino con le mie sorelle, ciò che non accadeva più da 5 anni. La sera, per non destare sospetti, fui costretto ad andarmene a spasso. Di solito, fino alla Marna, la strada mi era agevole. Quella sera mi trascinavo. I sassi mi torcevano i piedi, accelerando i battiti del mio cuore. Disteso nella barca, per la prima volta, auspicai la morte. Ma incapace di morire come di vivere, contavo su un assassino pietoso. Mi rammaricavo che non si potesse morire di noia né di dolore. Via via la mia testa si svuotava con il rumore di una vasca da bagno, un estremo risucchio più lungo. La testa era vuota. Mi addormentai. Una fredda alba di luglio mi ridestò. Intirizzito rincasai. La casa era spalancata. In anticamera mio padre mi accolse duramente. Mia madre era stata indisposta. Avevano mandato la cameriera a svegliarmi perché andassi a cercare il dottore. La mia assenza risultava quindi ufficiale. Sopportai la scenata, apprezzando l'istintiva delicatezza del buon giudice, che tra mille azioni in apparenza biasimevole, sceglie la sola innocente per dar modo al colpevole di giustificarsi. Non mi giustificai, del resto era troppo difficile. Lasciai credere a mio padre che ritornavo dalla casa di Marta. E allora, quando mi proibì di uscire dopo cena, lo ringraziai fra me e me di essere ancora mio complice, di fornirmi un pretesto per non trascinarmi più fuori da solo. Aspettavo il postino. Era la mia vita. Ero incapace di fare il minimo sforzo per dimenticare. Marta mi aveva dato un tagliacarte con la pretesa che lo usassi soltanto per aprire le sue lettere. Potevo servirmene? Ero troppo ansioso, strappavo le buste. Ogni volta, vergognandomi, mi proponevo di tenere la lettera intatta per un quarto d'ora. Speravo, in tal modo, di poter alla lunga tenermi in tasca le lettere chiuse. Ogni volta rimandavo a domani questa regola. Un giorno, spazientito dalla mia debolezza, in un gesto di rabbia, stracciai una lettera senza leggerla. Non appena i pezzetti di carta furono disseminati in giardino, mi precipitai a quattro zampe. La lettera conteneva una fotografia di Marta. Io, così superstizioso, che interpretavo in senso tragico i fatti più trascurabili, avevo stracciato quel volto. Ci vidi un avvertimento del cielo. Le mie angosce non si placarono che dopo le 4 ore passate a rincollare la lettera e il ritratto. Lo spavento che capitasse una sventura a Marta mi sorresse durante quel lavoro assurdo che mi confondeva occhi e nervi. Uno specialista aveva prescritto a Marta i bagni di mare. Pur ritenendola una mia cattiveria, le proibii di farli, non volendo che altri all'infuori di me potessero vedere il suo corpo. D'altronde, poiché in ogni modo Marta doveva starsene un mese a Granville, mi rallegravo della presenza di Jacques. Lo ricordavo spogliato nella fotografia che Marta mi aveva mostrato il giorno dei mobili. Niente mi impauriva più dei giovanotti sulla spiaggia. Li giudicavano più forti, più eleganti di me. Da loro la proteggeva suo marito. In certi momenti di intenerimento, come un ubriaco che abbraccia tutti, fantasticavo di scrivere a Jacques, di confessargli che ero l'amante di Marta e, forte di questo titolo, di raccomandargliela. Talora invidiavo Marta, adorata da Jacques e da me. Non dovevamo forse insieme cercare di fare la sua felicità? In quelle crisi mi sentivo un amante compiacente. Avrei voluto conoscere Jacques, spiegargli le cose e perché non dovevamo essere gelosi l'uno dell'altro. Poi, tutto a un tratto, l'odio correggeva questo dolce pendio. In tutte le lettere Marta mi chiedeva di andare da lei. La sua insistenza mi ricordava quella di una mia zia devotissima, che mi rimproverava di non andare mai sulla tomba di mia nonna. Non ho la vocazione del pellegrinaggio. Tali doveri tediosi localizzano la morte, l'amore. Possiamo non pensare a una morta o alla propria amante assente altrove che non sia un cimitero o in una certa stanza? Non tentai di spiegarlo a Marta e le dissi che andavo da lei. Altrettanto a mia zia, che ero andato al cimitero. Perciò dovetti andare da Marta, ma in particolari circostanze. Incontrai un giorno sulla linea ferroviaria quella ragazza svedese alla quale i suoi corrispondenti proibivano di vedere Marta. Il mio isolamento mi fece prendere gusto agli infantilismi di quell'esserino. Le proposi di venire a far merenda a Jeu, di nascosto, l'indomani. Tacqui sull'assenza di Marta per non spaventarla e aggiunsi anche quanto confesso che non sapevo bene cosa intendessi fare. Agivo come quei bambini quali nel far conoscenza cercano di stupirsi l'uno con l'altro. Non appena mi fossi sentito in obbligo di comunicarle l'assenza di Marta, non resistevo più all'idea di vedere sorpresa o collera su quella faccia d'angelo di Svea. Sì, era senz'altro il puerile piacere di stupire, perché non trovavo niente di sorprendente da dirle, mentre lei, invece, avvantaggiata da una sorta di esotismo, mi sorprendeva a ogni frase. Nulla di più delizioso di quella improvvisa intimità fra persone che mal si comprendono. Lei portava al collo una piccola croce d'oro smaltata di blu, pendente su un vestito assai brutto, che reinventavo a gusto mio. Una vera bambola vivente.